Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascoltiamo un po' di sassofoni, specialmente in Europa. Comunque diciamo che si attraversa un po' il mondo in questo panorama di figure ormai, come dire, abbastanza conosciute e senza essere di primissimo piano. Come per esempio la prima, una donna, si tratta di Silke Eberhard, area berlinese, indubbiamente lavora nell'area berlinese e ha già una lunga esperienza alle spalle, perlomeno tra i 40 e i 50 anni, molto attiva proprio in quell'ambiente. Sono diversi progetti che ha condotto insieme ad altri musicisti, per esempio le collaborazioni con Aki Takase e poi con altri dell'ambiente berlinese, spesso con dediche o approfondimenti su repertorio classico di che fa parte ormai della storia del jazz. Penso per esempio a un bellissimo ricordo e riflessione sui lavori di Eric Dolphy, ma anche su Ornette Coleman, e poi l'ultimo dell'anno scorso con un gruppo diverso che ha proposto appunto Mingus, con una formazione costruita solo appositamente per quel progetto. E in questo caso si presenta con un disco in una formazione piccola, meno di così, insomma, nel senso che è in trio, quindi abbastanza ambizioso, come peraltro è riuscire a sostenere il repertorio in un trio. È interessante il suo suono, è un suono molto asciutto, molto sintetico, che è privo di abbellimenti. Forse questo la fa sembrare anche abbastanza fredda o distante, ma è indubbiamente interessante, intrigante il suo modo di interpretare sia il repertorio classico che anche appunto temi suoi. Viene accompagnata, lei il suono è sax contralto e clarinetto basso, viene accompagnata da Jan Roeder al contrabbasso e da Kay Lubke alla batteria. Un disco uscito per la Intact. Ascoltiamo alcuni brani. Thank you. Thank you. Questo era il trio di Silke Eberhard, interessante sassofonista che, come dire, conferma le sue qualità anche con questo ultimo lavoro. E, passando a un altro territorio, ma comunque mantenendo il sax come protagonista, un lavoro uscito a nome di Arghiglie, ma anche con una doppia leadership, quella del pianista portoghese Mario Laghigna e del sassofonista anglo-francese o franco-inglese Julian Argyll, che suona sax, soprano e tenore. Poi si aggiunge anche alle percussioni e alla batteria Helge Andreas Norbakken, che naturalmente è un norvegese. Non può mancare un norvegese in un gruppo internazionale ormai. Un bel lavoro questo, con temi interessanti, ben declinati, che danno merito al compositore, che è il pianista Mario Laghigna. Ascoltiamo tre brani presi da questo lavoro, che è intitolato Settembre. Ben riuscito questo incontro tra il pianoforte di Mario Laghigna e le anze di Julian Arghiglia. E, peraltro, vabbè, Laghigna soprattutto è capace come compositore. Arghiglia conferma le sue qualità di, come dire, sax di seconda fila, però che ha ormai una lunga esperienza e anche molto apprezzata. Si parte dagli apici di Django Bates all'inizio degli anni 90, una formazione nella quale era presente anche lo stesso Arghiglia, e poi incontri con molti musicisti, in molte formazioni, molti progetti, e attualmente si ritrova ad essere sicuramente uno dei sassofonisti meglio recensiti, diciamo, anche a livello internazionale, non soltanto in patria. E questo, passiamo oltre, l'ultimo disco dal quale ascolteremo un paio di composizioni, è il più giovane per oggi, si tratta di un giovane sax tenore, Igor Lumpert, che fa parte un po' dell'ambiente newyorkese. È uno delle tante voci, infinite voci, che emergono nella grande mela, e peraltro con un ottimo risultato. Un disco uscito di recente, nelle ultime settimane, per l'etichetta Clean Feed, e il risultato, appunto, dicevo, non solo è ottimo risultato, ma anche la formazione è di alto livello. Infatti, oltre al sax tenore di Lumpert, anche il sax contralto di Greg Ward, ottimo sassofonista emergente, che fa parte un po' degli ambienti di Dave Douglas, di Linda Ho, insomma, diciamo, questo mainstream molto aggiornato, molto attento alle novità. Poi alla tromba Jonathan Finlayson, che non ha bisogno certamente di essere sottolineata come qualità, John Ellis al clarinetto basso, solo in un brano, poi Chris Tordini al contrabbasso, che ormai è consolidato come uno dei migliori sidemen sulla scena newyorkese, e Kenny Grokowski alla batteria. We'll be right back.